Ieri ho visto un toccante e suggestivo video TEDx di Alessandro Pescara. Non sapete cosa sono i video TED? Non sapete cosa vi perdete e spero proprio che recuperiate presto. Si tratta di un video di 20 minuti in cui il relatore parla della sua toccante esperienza di vita. Non voglio anticiparvi troppo di quello di cui si tratta perché spero che lo vediate di persona. Comunque, a un certo punto Alessandro dice così: non sappiamo quale sarà l'ultima volta in cui abbracceremo una persona, quindi fatelo adesso, abbracciatevi adesso, ditevi che vi volete bene, ditevelo adesso. Questa frase mi ha fatto venire in mente un episodio di Lost, quinta stagione, tredicesima puntata. Tranquilli, se non avete ancora visto Lost, non si tratta di uno spoiler. Comunque, se ne avete paura, interrompete pure la visione, non mi offendo. In quella scena il protagonista è Miles, un ragazzo che ha il potere di mettersi in contatto con i defunti. Miles viene contattato da un uomo il cui figlio è morto in un incidente d'auto. L'uomo lo contatta perché è ossessionato dal pensiero che suo figlio non sapesse quanto lui lo amasse veramente, gli volesse veramente bene. Miles riceve un lauto compenso, si mette in contatto con il figlio defunto e a quel punto rassicura il padre. Suo figlio sapeva quanto gli volesse bene. Passa un po' di tempo e Miles ritorna da quell'uomo e gli restituisce i soldi, dicendogli che non era vero che si era messo in contatto con suo figlio. Il padre è molto deluso di questo e chiede a Miles: perché non hai continuato a farmelo credere? E Miles gli dice che non sarebbe stato corretto nei confronti del figlio. Se desiderava che suo figlio sapesse quanto gli voleva bene, avrebbe dovuto dirglielo quando era ancora in vita. Non possiamo sapere quando sarà l'ultima volta che potremo abbracciare una persona, oppure dirgli che gli vogliamo bene, o dirgli che lo amiamo. Facciamolo adesso, non aspettiamo domani. Facciamolo adesso.